mi sembra giusto o doveroso farvi ascoltare anche lui in questa nostra prima puntata. Vi ricordo che siete all'ascolto di Articolo 21 con Andrea, la radio è Radio Oltrepò. Vi ricordo ancora i nostri account su Facebook, cercate Radio Oltrepò, oppure su Twitter cercate sempre Radio Oltrepò. Potete aggiungerci nella lista dei vostri amici per quanto concerne Facebook. Se invece volete leggere le nostre notizie, i nostri, diciamo così, nostri news, le nostre news su Twitter, potete aggiungerci nella vostra lista e sarete informati di quello che accade all'interno di questa radio molto molto goliardica, come amo definirla, e al 100% veramente open source, gratuita, perché trasmettiamo senza, come detto precedentemente, senza spendere un soldo e principalmente per divertirci. Direi, prima di ascoltarci questo grande artista russo che mi auguro apprezzerete, vi do ancora una volta la buona serata. Se ci ascoltate di sera, se invece chi ci ascolta di notte o di mattina o di pomeriggio, a seconda di quando verrà replicata questa trasmissione, a tutti voi il buon ascolto con la musica di Radio Oltrepò. Ora invece spazio alla musica chill out, un po' di chill out non ci sta male questa notte, che ne dite? Stai ascoltando la programmazione di Radio Oltrepò.